Buon pomeriggio a tutti e ringrazio Lucia, Centro di Documentazione, per questo incontro e mi fa molto piacere essere qui con Beniamino, con Alessandro, con Mauro e con voi a parlare di questo libro che ho letto, diciamo, mescolando due aspetti. Uno, diciamo, del quale dirò qualcosa alla fine, che forse interessa meno, ma credo sia un aspetto che riguarda anche molti di noi, che è l'aspetto più personale. C'è qualcosa anche, diciamo, della mia storia, anche se era la storia di un bambino. Ecco, e sono riemersi dei nomi, delle persone che incontravo anch'io quando avevo pochi anni, ma che evidentemente, come dire, mi sono rimaste impresse. Se le pagine di Beniamino possono averli richiamati così presenti anche alla mia memoria. E l'altro modo col quale ho letto questo libro è cercando di allontanare questi aspetti più personali, cercando di incontrare una figura di uomo, di sacerdote, di uomo come Bruno Borghi, che non posso dire di aver incontrato, anche se a Quintole da bambino ci sono stato. Se, diciamo, qualche immagine di questa, della chiesa di Quintole ce l'ho ancora, e di questa madre avvolta un po' nel mito, che non ricorderei in faccia, ma ricordo appunto che quando si parlava, e i miei genitori parlavano della madre di Bruno Borghi, era appunto, come dire, la madre, ecco, e mi è rimasto appunto questo molto impresso. Cercando di allontanare gli aspetti personali e incontrando appunto un'esperienza umana, un uomo e un periodo storico, culturale e politico. Penso che il libro di Beniamino abbia appunto questo grande merito. Beniamino dice: non è una biografia, non è una biografia nel senso che non ricostruisce tutto della vita di Borghi, ma si sofferma su alcuni aspetti, alcuni momenti, alcuni impegni, alcune battaglie. Però, diciamo, per certi aspetti lo è una biografia, perché è un volume, credo, che permetta oggi di incontrare appunto le battaglie, i principi fondamentali di questa figura così importante. Beniamino, scrivendo questo libro, ha fatto tesoro della sua esperienza, del suo incontro con Don Borghi, del suo incontro con molte esperienze che ha condiviso con Borghi, testimone, come talvolta ripete nel libro. Ricorda appunto dei momenti personali. Mi è rimasto impressa appunto la pagina che rammenta una riunione all'Isolotto nel gennaio, forse del 69, non mi ricordo la data. Ecco, e Beniamino dice: mi ricordo benissimo quella sera, mi ricordo benissimo la determinazione, anche la lucidità di Borghi quando intervenne ad un'assemblea appunto all'Isolotto. Però non fa solo questo Beniamino. Ecco, Beniamino raccoglie testimonianze altrui, raccoglie i documenti disponibili che potessero aiutare a ricostruire la storia di Borghi, le poche cose, non molte, diciamo, che lo stesso Borghi ha scritto, alcune conosciute perché pubblicate magari su un giornale o su un giornalino, ecco, o su un giornale meno conosciuto, ma altre anche non utilizzate, credo, prima di oggi, come i quaderni nei quali annotava, diciamo così, delle riflessioni, alcune cose che faceva, per esempio, nel periodo del Nicaragua, questi quaderni diari che Beniamino utilizza appunto per ricostruire il rapporto tra Borghi e il Nicaragua. Il libro è diviso in sei capitoli. Il primo capitolo è un capitolo che ne occupa quasi la metà del libro. È un capitolo intitolato La Chiesa, è un capitolo dedicato alla storia di Borghi, da quando era bambino, con questa infanzia all'Impruneta che Beniamino riesce a ricostruire, da quando decide di entrare in seminario. C'è un ricordo molto bello che credo possa essere una delle cose da tenere in mente, perché poi caratterizza un po' tutta la vita di Borghi. Borghi che ricorda lui bambino che andava in chiesa all'Impruneta, e che in chiesa all'Impruneta c'era un padre dice padre Tarocchi, che parlava dei poveri e della povertà nel Vangelo. E io mi ricordo, ero entrato in fondo alla chiesa piena zeppa, così, e sento queste parole. E uscii di lì, deciso a entrare in seminario, a farmi prete. E quando lo dissi per la prima volta alla mia mamma, lei disse, ma che seminario, vieni via, ora tu cominci a portare qualcosa a casa e poi ci vuole un monte di soldi. La madre, che siccome Bruno aveva iniziato a lavorare e portava qualche soldo a casa, dice, ma che seminario? Però l'idea di entrare in seminario, perché sente da bambino un sacerdote che parla dei poveri, parla del Vangelo, e questo è in fondo il tema. Di una storia umana, il tema della vita di Borghi. In questo libro, che attraversa varie esperienze, l'esperienza del lavoro, sono, se posso dire così, le pagine che più mi hanno preso, quelle di Borghi, prete operaio, perché mi interessa molto quel momento storico che Beniamino ricostruisce, mi interessa molto l'esperienza dei preti operai, che è stata raccontata anche attraverso dei testi che hanno un valore letterario. Pensavo a un volume di Luisito Bianchi, che era appunto un prete operaio e che ha raccontato la sua esperienza di prete operaio. Però questa voglia di Borghi di andare in fabbrica, fin dall'uscita del seminario, la volontà di andare in fabbrica, perché era lì, appunto, nel mondo operaio che lui ritrovava i poveri del Vangelo, ritrovava gli ultimi, andare in fabbrica, lavorare come loro, condividere le loro battaglie. E questo ha accompagnato Borghi per degli anni, ecco, tra la possibilità di entrare in fabbrica e l'allontanamento della fabbrica, la possibilità di entrare e l'allontanamento perché la Chiesa diceva no, i preti devono occuparsi delle anime e non, diciamo, di lavorare, oppure perché la fabbrica stessa appunto lo licenziava. E poi, dicevo, un capitolo dedicato ai temi della giustizia, il Borghi e la giustizia, e la presenza di Borghi quando veniva processato, o come dire l'utilizzo di Bruno Borghi dei momenti in cui la giustizia lo chiamava a rispondere di alcuni reati, non tanto per scagionarsi ma per spiegare agli altri, alle persone che condividevano le sue posizioni, quali erano i suoi principi, per continuare in qualche modo il suo impegno e le sue battaglie. Ecco, battaglie che anche nelle quali si è trovato coinvolto anche Beniamino, che non sapevo fosse stato anche accusato di vilipendio verso la magistratura, lui magistrato, e che è una cosa che me l'ha resa ancora più simpatico, ma poi dopo questo lo dico alla fine. Poi il rapporto con il Nicaragua. Ecco, dopo la rivoluzione sandinista, il capitolo sul Nicaragua, e individuare là in Nicaragua una possibile strada, ecco, una possibile strada che veniva messa in campo, ma non guardando il Nicaragua da lontano, perché questo dal libro viene fuori, era Borghi, non guardare i problemi da lontano, ma andare là dove appunto riteneva che ci fosse bisogno di lavorare. E quindi il primo viaggio in Nicaragua, poi ne seguiranno anche gli altri, l'arrivo là per lavorare nelle cooperative, non per fare l'osservatore speciale. Il capitolo dedicato alla disabilità, all'impegno di Borghi per far entrare alla scuola, la scolarizzazione di alcuni ragazzi e bambini disabili, l'importanza, diciamo, di far rispettare le poche leggi che allora c'erano, ma che erano le leggi appunto che prevedevano, ad esempio, che nei luoghi di lavoro ci fosse una percentuale, ecco, riservata a persone disabili, e che non venivano rispettate neppure in Toscana. E poi il volontariato nelle carceri. Questi sono i sei capitoli del libro. Dicevo che il primo è un grande affresco di una stagione particolarmente importante, intensa nella Chiesa, nella politica toscana, fiorentina, tra appunto licenziamenti, proteste operaie, dalla Galileo alla Pignone, che vedevano sempre Borghi coinvolti, alle prime iniziative sull'obiezione di coscienza. Nel 1963 la condanna all'obiettore di coscienza Giuseppe Gozzini e naturalmente Borghi che si schiera dalla parte del condannato, e su questa diciamo posizione anche uno degli incontri con Don Lorenzo Milani, che poi ci ha diciamo così lasciato una delle frasi anche più belle che noi colleghiamo a Milani e più come dire importanti, quella appunto l'obbedienza non è più una virtù, che oggi sembra quasi una frase scontata, ma che in quegli anni era una frase appunto così importante, così dura anche. Allora, questo è diciamo l'aspetto personale, ecco, lo dico un po' andando anche verso la conclusione, perché spero che ci sia modo di discutere, e poi è importante che Beniamino parli. Intanto l'aspetto personale è il legame che ho con Beniamino da quando sono bambino, l'ho conosciuto fin da piccolo, per cui per me Beniamino era il giudice, andiamo dal giudice. Beniamino non l'ho mai visto nell'esercizio della sua funzione di giudice, di magistrato, ma l'ho visto giocare a calcio, l'ho visto in tante circostanze, l'ho visto con i ragazzi del doposcuola che appunto aveva aperto e messo in piedi, e quindi per me non è possibile leggere questo libro senza pensare al rapporto che mi lega con Beniamino fin da quando ero piccolo, e anche al ruolo che Beniamino ha avuto in anni in cui, giovane, ma mi cominciavo a occuparmi di questioni politiche. Penso a Beniamino e alle sue battaglie contro l'amianto, e penso a Beniamino che veniva invitato anche qua a Pistoia per le sue iniziative per il rispetto della legge sulle barriere architettoniche. Ecco, penso appunto ad una serie di tematiche, ecco, che politiche, civili, alle quali Beniamino ha dedicato tante energie nella sua vita, e che appunto me lo hanno fatto trovare accanto e come persona appunto da ascoltare e da seguire. Ma gli aspetti personali sono anche legati al fatto, e questa è una prospettiva che forse può interessare meno, che mi sono reso conto leggendo questo libro che tutta una serie di tematiche, anche se vissute nell'infanzia, sono tematiche che sento, come dire, familiari. Se guardo gli anni, ecco, Borghi, siamo soprattutto fine anni 60, anni 70, ed escludo la parte del Borghi, diciamo, del nuovo millennio, ecco, che comunque continua a impegnarsi ad esempio con i detenuti, con le detenute di Sollicciano, che condivide con mio padre l'esperienza del laboratorio che produceva bambole, appunto, per il quale le detenute di Sollicciano producevano delle bambole. Ma appunto il periodo anni 70 è un periodo che non avrei immaginato forse senza questo libro, che mi è entrato dentro. Il centro di documentazione per me è una porta. È una porta in una casa, che era la casa dove abitavo, e varcata questa porta una nuvola di fumo e le persone che discutevano a serate. Ecco, uno dice, ma cosa è rimasto di quegli anni? L'obiezione di coscienza mi veniva da pensare, e poi subito dopo l'obiezione fiscale alle spese militari, che è un tema che forse andrebbe ripreso proprio in questo periodo, perché pensare che di fronte alla guerra la scelta è aumentiamo le spese per gli armamenti, forse, ecco, quella sensibilità, quell'idea di dire, se lo Stato spende per le armi questa percentuale delle mie tasse, io questa percentuale delle mie tasse non la voglio pagare, ecco. E a Pistoia, come dire, i movimenti che nascevano su questi temi, con tante appunto persone coinvolte a partire da mio padre, il Nicaragua, le manifestazioni per il Nicaragua, cioè penso, ecco, per arrivare a concludere, che per molti di noi questo libro a molti di noi consenta questi due tipi di letture. Per me è l'infanzia, ma per molti di voi invece sono anni in cui come dire condividevate quelle battaglie, eravate presenti, E quindi c'è questo tipo di lettura. Rileggere la storia di Borghi significa anche ripercorrere appunto alcuni momenti della propria storia, della propria vita. Ma c'è quest'altra lettura anche che è importantissima, leggere il libro per incontrare appunto una storia, un libro che può parlare appunto a chi non le ha vissute quelle vicende, che può parlare a una generazione più giovane della mia, già per me è un po' storia, è un po' un libro di storia contemporanea per molti aspetti, ma a una persona per una persona di 30 anni è storia, come dire, davvero da studiare su dei libri di testo. E allora credo che Beniamino, scrivendo questo libro, pubblicandolo, abbia fatto un regalo, un servizio non solo a chi Borghi l'ha conosciuto, a chi ha condiviso tutta una serie di battaglie o di ideali, ma lo abbia fatto anche perché queste battaglie, questi ideali possano continuare a parlare, a testimoniare, a indicare qualche cosa a chi appunto è venuto magari dopo o anche a chi li ha vissuti e si è, diciamo, negli ultimi anni un po' rassegnato, un po' allontanato da certe forme di impegno, perché in fondo, e qui davvero, davvero concludo, è cambiato un po' tutto rispetto a quegli anni 60 e 70. Però, se ci pensiamo bene, non è cambiato il Vangelo, che era la guida di Borghi e che diciamo così, dice oggi le cose che ha sempre detto, e non sono cambiati i valori, perché se noi pensiamo ai valori che hanno accompagnato la vita di Borghi, ecco, devono essere ancora oggi i nostri valori e devono essere i valori che caratterizzano le nostre giornate. Spesso questo non accade, ecco, ma la lettura di questo libro, ecco, è una lettura che può stimolare in questo senso, può far tornare voglia, ecco, di dare centralità a certi temi, a certi valori.